Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti. Ebbene, il giorno fatidico, il momento fatidico dei tappi che voleranno sta per arrivare. Mancano ancora 3 giorni, ma già immagino che tutti abbiate fatte provviste appunto di vini con cui festeggiare. Ma devo dire che in realtà secondo me c'è una brutta abitudine, e parleremo proprio di questo. Perché i vini delle feste così chiamati, che sono appunto i vini che vanno da Franciacorta agli OCG a tutti gli spumanti metodo classico, ma anche agli champagne, vengono utilizzati soprattutto alla fine dell'anno. E voglio discutere di questo: perché questa mania, questa moda? Perché non invece pasteggiare a tutto pasto con questi vini? Viva il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante come il riso dell'amante. Ma io voglio cominciare questo discorso, questo giro di tavole abbastanza sparse per l'Italia, con Maurizio Zanella, presidente del consorzio del Franciacorta, nonché produttore di Cadelbosco. Zanella, ma perché non questi vini, appunto, cominciare dal Franciacorta di OGG, ma anche tanti altri, non a tutto pasto? Perché questa mania, questa abitudine invece di berli, di stapparli solamente per le feste o addirittura con il dessert? Beh, e buongiorno a tutti. Per il dessert sicuramente è un'abitudine sbagliata, mentre invece celebrare, brindare, festeggiare penso che sia una ricorrenza tale che non può avere vino diverso. Il fatto invece di, e quindi è più che giustificabile, il fatto di destagionalizzare i consumi, quindi di avere queste bottiglie anche accompagnate a un pranzo come aperitivo, sta cambiando lentamente, ma sta cambiando, ma si osserva molto bene, soprattutto per la denominazione che mi riguarda, quindi per il Franciacorta, che i consumi si stanno muovendo rapidamente, molto più nel corso dell'anno che rispetto al mese di dicembre, come era un tempo, cioè 20 anni fa la percentuale era molto più elevata, si arrivava quasi a un 60% dei consumi negli ultimi 2 mesi, adesso si è abbassato a 40%, quindi è ancora alto, ma non è più quello di una volta. Bene, chiediamo a Franco Maria Ricci, che è direttore di Bibenda, ma è uno di coloro che insegnano a bere in questo paese. Franco, ma vogliamo togliere questa dizione vini delle feste, perché così la gente almeno questi vini se le beve tutto l'anno e per tutti i pasti? Dirlo alla signora Rossi, ma noi lo facciamo ormai da 20 anni, che il vino della festa non esiste proprio, perché uno spumante che tra l'altro l'Italia si sta comportando benissimo per il valore di certi territori come la Franciacorta, il Trento, Doc, eccetera. Noi, la cosa importante è cominciare a farlo bere di meno durante le feste, cioè dire che il vino spumante col panettone, a meno che non sia dolce, fa male, è brutto, è cattivo. Bisogna bere il vino a tutto pasto sempre, si tratta di un Pinot Nero, si tratta di uno Chardonnay vinificato con le bollicine, con le spumante, come chiamatelo come pare, pare. Vado pure dietro al mio concetto che bollicine è bruttissimo, purché si consumi tutti i giorni, perché è un vino della festa, e festa deve essere tutti i giorni. Bene, Zanella, ma però i nostri vini, diciamo metodo classico, quelli ottenuti col metodo classico, compreso appunto quello che tu rappresenti, insomma, all'estero stentano, ma come mai questo? Beh, stentano perché, per quanto riguarda Franciacorta, c'è una denominazione giovane che ha 50 anni, che si confronta non in termini dimensionali ma qualitativi con i cugini d'Oltralpe che hanno 300 anni di storia sul mercato, quindi è ovvio che dobbiamo pagare il dazio del noviziato, però ci sono segnali confortanti. Volevo segnalare, ne sono molto soddisfatto, che la Bibbia inglese delle guide relative appunto allo champagne prima relegava in poche pagine gli altri sparkling del mondo, la guida di quest'anno dedica uno spazio enorme a Franciacorta, dando dei giudizi non lusinghieri di più, ma mettendo i puntini sulle i sul ruolo che Franciacorta ha nel mondo in termini di alternativa qualitativa ai Cugini d'Oltralpe. Di questo ne siamo molto orgogliosi, vuol dire che il cammino che abbiamo intrapreso è giusto e quindi andiamo avanti sulla direzione della qualità senza compromessi, per cercare di regalare al nostro paese le soddisfazioni che si merita, non solo coi volumi, ma anche col prezzo e la qualità. Franco Maria Ricci, tu che sei un arbiter su questo, la vogliamo finire di fare gli accostamenti tra champagne o i confronti tra champagne e spumanti, metodo classico italiano? Siamo proprio noi che non lo facciamo. Comunque sì, questo è anche un altro pericolo. Il pericolo è anche di inserire nel mondo un vino spumante non di qualità. Ecco perché poi fa fatica lo spumante di qualità ad andare nel mondo. Per cui bisogna calmierare tutto. Cioè la qualità deve essere esportata e deve essere compresa dal resto del mondo. Va educato il mondo come va educato l'Italia. Cioè 51 milioni di persone che vivono in questo nostro paese non sanno neppure che cos'è il vino. Figuriamoci lo spumante. Se poi vedono al supermercato a 1,70 euro un vino spumante, che faccio? Dice, vado a comprare quello perché tanto è uguale, sempre spumante, cioè quindi la gente non capisce e allora bisogna educarla. Noi stiamo facendo questo da 23 anni e bisogna cercare di capire che questa è la realtà, cioè dobbiamo cambiare le regole. No, io sono abbastanza, così come posso dire, arrabbiato, perché ogni tanto vedo questi confronti sulle quantità prodotte. Allora vino bollicine italiane a 360 gradi batte lo champagne, ma secondo me sono sciocchezze questo. Zanella, cosa ne pensi? Non deve provocarmi, Paolini, lei sa come la penso. Penso che siano comunicati fatti ad hoc da chi non ha nulla da dire o quantomeno da chi vuole dare delle notizie non vere. È inutile confrontare un mondo rispetto a una denominazione, è inutile fare i confronti. Io credo che ognuno di noi deve lavorare seriamente per gli scopi e gli obiettivi che ha. In Italia abbiamo denominazioni che possono coprire una fascia in termini di posizionamento di prezzo molto bassa, con grande successo, vedi il Prosecco, e dobbiamo mantenerne la, come dire, l'identità e la qualità e proteggerla, avendo la chance di espanderci nel mondo. Abbiamo denominazioni come Franciacorta che possono battersi sul piano qualitativo, ma basta con i confronti non solo numerici ma anche qualitativi. Ricci, ma come spieghi questo grande successo del Prosecco nel mondo? Perché evidentemente viene posto sul mercato a basso costo e quindi c'è questa caratteristica diversa, non so, io dico che semplicemente dobbiamo cercare proprio veramente con tutte le nostre forze di farlo capire il nostro vino nel mondo, di farlo capire e proteggerlo, perché non si può accostare lo champagne. Il champagne è un vino, lo spumante è un altro, e se questo continua ad esserci, questo messaggio è sbagliatissimo, ma non perché diciamo viva lo spumante italiano o viva lo champagne, dobbiamo dire che sono due vini diversi, è come se noi parliamo di Aglianico o di Chardonnay, sono due cose diverse e quindi la loro diversità è bello, la bella questa realtà, ma le tradizioni italiane hanno i sentori, gli odori, i gusti, le tradizioni, i territori che sono diversi e anche lo spumante deve fare questa entrata dentro, deve far capire la diversità nel sentore, nel sapore, nella costruzione del prodotto. Se questo non lo facciamo comunicare, se non entra dentro la gente, perché lo capiscono chi fa un corso per sommelier e gli altri non lo capiscono? Lo capiscono perché studiano, è tutto qua. Franco, di la verità, ma tu l'ultimo dell'anno brinderai con lo spumante italiano o con lo champagne? Che bella domanda. Vabbè, io brinderò con un Franciacorta, va bene, dato che c'è Zanella dall'altra parte, un grande Franciacorta. Beh, se ti chiamo dopo e magari sono un Trentino Doc, sì, non mi dirai che brindi con un Trentino, guarda, Doc. No, tu basta che mi chiami e ti dico di venire, ti invito a casa mia e vediamo cosa beviamo insieme. Ma ecco, io devo dire una cosa, che secondo me il metodo classico, sia appunto Franciacorta, sia Trentino Doc o da altre parti d'Italia, o champagne, si accostano perfettamente su quello che si mangia certo, a tutto pasto a mezzogiorno. Certo. I cappelletti in brodo, i tortellini in brodo o il bollito sono perfetti per... Ma certo. E invece lasciamolo perdere in fondo, quando arriviamo al mio amato panettone. Bravo. È veramente un orrore. Un orrore mettere un grande vino, come sono appunto questi vini, con il dolce. Il dolce, beh, se è un demi-sec, allora sì, sì, posso essere d'accordo. Ma ci sono altri vini, perché in Italia è un grande produttore di moscato, per esempio. Perché certo. lasciamolo al moscato. D'accordo. Allora io non... Via con i formaggi. Anche con i formaggi, certo. Formaggi a fine pasto. Chiamiamolo allora, per nome, chiamiamolo col nome, non chiamiamolo spumante. Dai, ma bisogna... Io devo passare a parlare a 360 gradi. Ma tu devi parlare di Franciacorta, di Trento. Franciacorta e Trento. Benissimo, Franciacorta e Trento. Tanti auguri a Franco Maria Ricci e Maurizio Zanella. Buon anno. Chiamiamolo per nome. Va bene. Allora, linea alla regia, torneremo fra poco. Barbera e champagne, stasera beviamo. La mia è una provocazione, visto che parliamo sicuramente di Made in Italy, parliamo di metodo classico soprattutto, e parliamo di, appunto, di bollicine italiane. Ma ho con me un altro provocatore, che è Luca Gardini. Ciao Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Senti Luca, ti faccio una domanda provocatoria, ma tu, l'ultimo dell'anno, quando arriva mezzanotte, cosa stappi? Champagne, il metodo classico italiano, prosecco o cos'altro? Prima di tutto bisogna vedere se riesco ad arrivare a mezzanotte, però di solito, beh, io punto molto sull'Italia, quindi rimango sempre sul metodo classico italiano. Ultimamente anche Lambrusco, quest'anno avevo anche l'idea di un gotturno frizzante, perché si dimentica sempre di questi vini, ma abbiamo grandi vini, grandi bollicine italiane, però sicuramente quest'anno vado su Franciacorta. Ma abbiamo con noi, rimani con noi Luca, abbiamo con noi Elvira Bortolomiol, che appunto è una produttrice importante del prosecco di OCG. E a lei chiedo, Elvira, ma lei festeggerà con un suo prosecco a mezzanotte o con uno champagne? Beh, credo che sicuramente prenderò con un prosecco superiore. Abbiamo nel cuore questa passione e credo che il miglior modo di poi cominciare un nuovo anno sia proprio questo. E Matteo Lunelli, spumante delle cantine Ferrari, voglio chiedere anche lui, ma Matteo, tu ovviamente a mezzanotte aprirai una bottiglia di champagne? Assolutamente no, ovviamente sarà Ferrari, sarà un Trento DOC. E perché no, mi piacciono i grandi formati, quindi visto che festeggerò con amici e con la famiglia, un grande formato di solito è un brindisi speciale. Ecco, voglio proprio chiedere a Luca Gardini questo. Luca, ma i grandi formati appunto all'interno del mondo delle bollicine, si può dire che sono migliori, diventano migliori rispetto a una bottiglia di 0,720? Allora, la qualità del vino che viene messa dentro è la stessa, diciamo che nel formato più grande l'evoluzione, la maturazione è più lenta e quindi di conseguenza dà un prodotto non migliore, differente, con un'evoluzione più lenta, quindi un prodotto più rotondo nel lungo tempo, e sicuramente un litro e mezzo, un 3 litri, un 4 litri e mezzo, più il formato grande, più la massa è grande. Quindi proprio la maturazione del vino è più lenta, ti permette di avere un prodotto più longevo nel tempo. Però quando la qualità è grande, come Matteo Lunelli della Ferrari, che saluto, il prodotto quando è grande come loro, come grandi Franciacorta, che poi sono anche del Bosco, Monterosso o tanti altri, anche nella bottiglia normale la qualità è eccelsa. Voglio chiedere a Elvira Bortolomiol questo. Diciamo che molti metodi classici e lo champagne vengono indicati a tutto pasto. Io chiedo Elvira, voi considerate il prosecco superiore un vino a tutto pasto? Sì, lo consideriamo, e lo consideriamo a ragion veduta, perché abbiamo comunque dati dell'ultimo osservatorio proprio pubblicati in questi giorni, che dicono che il prosecco superiore, il prosecco del comparto in generale, è riuscito a danneggiare, diciamo così, il consumo. Non si riesce a bere il prosecco superiore e il prosecco in generale in qualsiasi momento della giornata, ma anche a tutto pasto. E questi dati proprio sono confrontati con i dati del champagne, che invece lo vedono ancora posizionato nelle vendite più importanti nel periodo natalizio. Ecco, Matteo Lunelli, ma lo vogliamo piantare di considerare i vini delle feste, insomma, ma vogliamo far sì che questi nostri prodotti siano bevuti tutto l'anno, proprio a tutto pasto? Si può far ottenere questo nel tempo, oppure veramente ormai, come posso dire, la testa della gente, del consumatore, è posizionata su il brindisi oppure sul momento della festa? Cosa si può fare? Ma io direi che si può, nel senso che comunque vedo un'attenzione crescente verso il mondo delle bollicine anche durante il pasto, tant'è vero che nei ristoranti non solo all'aperitivo, ma si vedono persone consumare Trento Doc, ad esempio accompagnate ai piatti. Noi come azienda abbiamo lavorato tanto in questa direzione. Ad esempio abbiamo un ristorante proprio nel cuore dei nostri vigneti che si chiama Locanda Margon, con uno chef, Alfio Ghezzi, che studia ogni giorno degli abbinamenti tra il Ferrari Trento Doc e le sue creazioni. In generale il metodo classico, il Trento Doc, è estremamente flessibile negli abbinamenti e permette addirittura di accompagnare un intero pranzo o un'intera cena. Noi ad esempio abbiamo studiato una cosa simpatica, è questo menù suggestione bollicine Ferrari, che addirittura accompagna ogni piatto a un Ferrari diverso, ed è un percorso che sta avendo un grande successo. Matteo, se la sente il suo collega Zanella a parlare di bollicine, io non lo so cosa succede, perché appunto lui ha bandito questa parola, in Franciacorta hanno bandito questa parola. Ma voglio chiedere a Elvira Bortolomiol se la parola bollicine aggrada ai produttori di Prosecco. Beh, noi riteniamo di essere comunque uno spumante, cioè non su questo mi sembra, anzi la parola stessa in italiano deve portare a qualificare i nostri vini. Il percorso che abbiamo fatto in questi anni, soprattutto oggi, dal 2009 con la DOCG, siamo riusciti a far capire che insomma un grande spumante italiano, le bollicine sono importanti, il perlage raffinato è importantissimo. Tutti sono elementi che comunque ci qualificano per il Made in Italy, questo sicuramente non può venir meno. Luca, hai parlato di Lambrusco prima, ho sentito nella tua primo intervento, ecco, tu sai che è una passione che ci accomuna su questo, ma cosa dire dei metodi classici adottati da una serie di produttori di Lambrusco? Qual è il livello qualitativo di questi prodotti? Beh, devo dire che io sono un grande fan del Lambrusco, la versione metodo classico non è che ha portato un'identità maggiore al Lambrusco, ma è vero, Lambrusco è quello non metodo classico, però devo dire che alcuni produttori, uno su tutti, la Cantina della Volta, nella versione metodo classico hanno tirato fuori delle sfumature veramente particolari. Non lo vedrei come una tendenza, ma lo vedrei come uno sviluppo per dare anche loro un panorama gustativo differente. Devo dire però, se dobbiamo comunicare Lambrusco, Lambrusco è la tradizione e non ci dobbiamo dimenticare di quello, perché nasce come un vino bevibile, di semplicità, accessibile e deve rimanere tale. Il metodo classico però penso che sia una soluzione, una cosa diversa da poter comunicare sempre un territorio di grande qualità come l'Emilia. Ecco Luca, ma le bollicine hanno una grande adattabilità, specialmente ai menù che vengono così propinati durante le feste, perché se pensiamo ai brodi, se pensiamo ai cappelletti o ai tortellini, se pensiamo al bollito, se pensiamo a tanti altri piatti appunto che sono festivi, cioè l'abbinamento è perfetto. L'abbinamento è perfetto, però mi rilascio a quello che si parlava poc'anzi, che secondo me le tendenze, le teorie, bere questo con quello, sottergo un po' la bollicina, quelle affettate, cioè vanno anche un po' sfatate. La bollicina è da tutto fatto, la bollicina tutti i giorni, la bollicina è allegria. Sto tema di bollicina, secondo me, bisogna lasciarlo, perché io vedo anche nell'ambiente giovanile, quando sei agli happy hour, tra i giorni, ma anche non solo tra i giorni, il termine andiamo a farci una bolla, facciamoci una bollicina, ti viene più semplice, più immediato, quindi secondo me, cioè, dobbiamo anche uscire un po' dagli schemi senza fare troppe pendenze o essere troppo tecnici e stare al proprio guscio, ma dobbiamo cercare di rendere tutto questo accessibile. La bollicina è un grande vino, un metodo classico italiano, dal Franciacorta al Trefroc, all'Alta Langa, all'Ambrusco, al Prosecco, che sa che io mi piace tantissimo. Sono grandi vini, grandi, è un patrimonio italiano grandissimo, dobbiamo sfruttarlo per rendendolo accessibile a tutti e portarlo sulla bocca e sulla tavola di tutti ogni giorno, perché sono grandi vini e dobbiamo tutelare questo. Elvira, come si spiega il successo del Prosecco nel mondo, questo grandissimo successo? Il grandissimo successo parte intanto da un territorio che ha un DNA particolare, che ha un qualche cosa che comunque è riuscito poi a esprimere nel vino e nello spumante. Sicuramente la grande capacità di essere adatto a molti palati, a molte cucine. I prosecchi sono sicuramente adatti alle cucine più asiatiche, quindi anche molto ha un carattere molto internazionale nella fase di abbinamento, e il fatto che comunque è in questi momenti, soprattutto di crisi, è anche molto adatto a tutte le tasche, quindi è un grandissimo prodotto di qualità ad un prezzo che è comunque usufruibile da molte persone, soprattutto i giovani, che hanno bisogno di conoscere questo vino, di essere sempre più educati a questo vino. Matteo, come mai il Trentino DOC, il Franciacorta DOCG stentano molto sui mercati esteri? Ma io credo che io sono tutto sommato invece positivo, nel senso che è un prodotto di eccellenza e quindi deve essere raccontato, deve essere spiegato e quindi occorre del tempo, però stiamo ottenendo dei risultati interessanti e c'è secondo me una voglia di scoprire un'alternativa nel mercato mondiale, un'alternativa allo champagne. E quindi il Trento DOC ad esempio si vuole presentare con la propria personalità come un vino che è un'espressione di un territorio unico. Ferrari e il Trento DOC sono un vino di montagna, frutto di un'agricoltura di montagna, espressione nel mondo dell'arte di vivere italiana, e questo secondo me ci distingue. Ovviamente è qualcosa di nuovo, perché occorrono investimenti, occorre tempo, occorre passione, occorre andare nel mondo a raccontare questa storia. Da questo punto di vista mi piace, tornando al discorso di prima, mi piace dire ad esempio che nel mondo il Trento DOC è prevalentemente consumato nella ristorazione, quindi durante il pasto. Sono tanti ristoranti italiani di eccellenza che raccontano ad esempio Ferrari abbinate alle proprie creazioni, come lo sono i grandi chef in Italia. Penso ad esempio, non so, che sono tornato poche settimane fa da Hong Kong, uno straordinario ristoratore italiano ha appena aperto un nuovo ristorante su un grattacielo meraviglioso, era lo chef di Palazzo Sasso. Lui ad esempio propone Ferrari Trento DOC e le bollicine italiane abbinate alle sue creazioni, anche perché il metodo classico è un vino moderno che si adatta tantissimo a una cucina di oggi che vuole essere sempre una cucina elegante, una cucina in cui appunto, perché le bollicine riescono a preservare l'eleganza dei piatti. Luca, voglio da te un abbinamento con il panettone, sicuramente non è un metodo classico e non sono tanti altri vini di così importanti appunto di bollicine. Quale potrebbe essere un abbinamento? Il classico, ma lo so tutti, è quello con moscato d'arte, però sicuramente secondo me col panettone ci possiamo divertire. Io vado, dipende il tipo di panettone, però quindi classico panettone, se fatto bene, secondo me dobbiamo ritornare anche a scoprire un po' quei vini che l'Italia anche si diventano, come potrebbe essere un 5 Terre Chartreuse della Liguria, quindi questo grandissimo vino, sì, ricco di zuccheri, ma anche di una grande acidità, una grande nota salata che si sposa bene col panettone, o se no, perché no, una Malvasia di Bosa, una Vernazza di Oristano, di scoprire anche questi grandi vini che solo l'Italia ha e sono veramente, che lavorano sullo stile quasi un po' del dolce, ma non dolce, con questa nota anche un po' voluta proprio dalla tipologia del vino. O se vogliamo essere un po' trasversali, un Ambrusco Rosé o anche un bel Gottuno di Valse ci sta bene, secondo me. Elvira, va bene il Cartizze col panettone? Il Cartizze è il nostro grande cru, voi sapete, sono solo 100 ettari di una collina particolarmente evocata nella zona del Conegliano Val d'Obbiadene, però il Cartizze secondo me ha una capacità di essere davvero davvero bevuto a tutto pasto. Io direi che con un dolce a fine pasto per festeggiare davvero il nuovo anno proverei ad assaggiare un Rive, che è comunque nella nostra denominazione un singolo vigneto, una grande vocazione e quindi il riconoscimento di quello che è anche un grande cru nella nostra area. Bene, grazie a Matteo Lunelli, Elvira Bortolomiol e a Luca Gardini. Linea alla regia, torneremo fra poco. Buon anno a tutti voi. Lambrusco e Bocco, non è così facile, perché prima e dopo il sogno c'è la vita da vivere, vivere. Lambrusco e Bocco. Bene. Qualcuno chiederà, ma come mai questa canzone, come mai si parla di Lambrusco, visto che parliamo di ultimo dell'anno, parliamo di bollicine, parliamo appunto di cosa si stapperà alla fatidica mezzanotte. Mancano tre giorni, quindi credo che molti stiano pensando agli acquisti. E allora capirete perché appunto questa canzone. Ma prima di tutto, tra gli ospiti che ho, voglio fare quattro chiacchiere con l'amico Moioli, che è un maître à penser del mondo dell'enogastronomia. Giacomo, ogni anno quando si arriva appunto in fondo si discute sempre champagne o diciamo vini italiani, a cominciare la Franciacorta di OCG, e non le chiamo bollicine perché sennò Zanella, presidente del Franciacorta, si ribella, dice no, non si possono chiamare bollicine, mentre tutti gli altri le chiamano bollicine. E allora io, visto che con Zanella ho già discusso di questo, posso parlare di bollicine. Dico, si parla di bollicine, si fanno i confronti, però la cosa che mi viene sempre così a mente quando ci avviciniamo all'ultimo dell'anno e alle feste è che c'è questo boom di acquisti di questi che vengono chiamati, secondo me anche in maniera che non danno considerazione, vini dalle feste. Ma la vogliamo piantare? Vogliamo cominciare a pensare che ci sono quasi tutte le bollicine che sono da tutto pasto? Sì, diciamo il simbolo dell'apertura del tappo, però ma utilizziamoli prima, magari durante tutta la serata, sia di Natale, sia dell'ultimo dell'anno, abbinati ai piatti, perché si abbinano benissimo, specialmente sui piatti appunto al punto delle feste. Tu cosa ne pensi, Giacomo? Ma guarda, Davide, anch'io, pur amando pazzamente la Franciacorta, come tu sai, continuo a chiamarle bollicine, perché mi danno un senso di gioia, di felicità, e in fin dei conti, quando stappiamo una bottiglia, è questo che dobbiamo cercare. Detto ciò, come del resto affermi tu, la bollicina, potendoselo permettere, dovrebbe diventare un vino quotidiano, dovrebbe essere il vino per tante occasioni, dovrebbe essere il vino abbinabile in modo versatile con tutto quanto. Io dico sempre, partiamo da un piatto che ci piace e cerchiamo un vino che ci dia altrettanta gioia e piacere, senza schemi, come amiamo dire tu ed io tante volte, e le bollicine sono una fantasia, ci danno un sacco di possibilità, dai territori più classici dell'Italia fino alle novità e ai vini emergenti, per certi versi sconosciuti, fatti con il metodo classico e comunque con le bollicine. Ecco, guarda caso, ma non tanto caso ovviamente, e anche ascoltando la canzone, abbiamo qui con noi Christian Bellei, cantina della Volta di Buonporto. Io devo dire che a Christian bisogna riconoscere un po', come posso dire, il merito di aver capito che il Lambrusco poteva avere anche questa versione. Chi l'avrebbe mai detto anni fa che c'era un momento così molto nero per il Lambrusco, dopo vicende di esportazioni in America, chiamato Red Cola? Eppure ha una resurrezione questo vino, dal punto di vista anche qualitativo, della considerazione della gente, anche in questa versione appunto metodo classico. Senti Christian, ma come ti è venuta appunto questa idea di applicare il metodo classico alle uve di Lambrusco? Ciao Davide, un saluto. Buongiorno. Agli ascoltatori. E diciamo che io non ho fatto altro che portare, insomma, in successione tutto quello che ha pensato mio padre negli anni 70, dopo una sua esperienza fatta in Champagne, quindi un rielaborare e rivedere un Lambrusco già da allora con un metodo classico, proprio per intravedere una longevità, un affinamento, un qualcosa che potesse dare molto, molto più complicità e molta, diciamo, anche più affinità a una bevuta elegante. questo proprio sfruttando tutte quelle caratteristiche positive che ha il Lambrusco, che sono l'acidità, un frutto persistente, e vivendo questa fase di affinamento, secondo me tutte queste caratteristiche vengono proprio migliorate e la degustazione alla fine può diventare una, diciamo, io la definisco ancora bollicina, una bollicina importante, ecco, anche con anni di affinamento. Ecco Giacomo, ma diciamo che il nostro amico Christian è andato in Francia a mettere le basi. La vogliamo piantare di fare questi confronti tra champagne e prodotti italiani di bollicine? Non sei d'accordo anche tu che sono due mondi completamente diversi e sono due vini diversi, quindi vanno rispettati sia l'uno che l'altro, ma non messi con questi confronti che molte volte avvengono sul numero di bottiglie o altro? Ma certamente, non fosse altro per citare in modo colto la psicoanalisi, perché si deve superare un po' questo complesso edipico, e oltretutto noi abbiamo delle bollicine, dei metodi classici, vini di grande importanza e di grande qualità. Detto ciò, io dico sempre che quello che contraddistingue un consumatore attento è la curiosità. E allora cerchiamo in Italia e non abbiamo paura poi, quando ci capita l'occasione, di assaggiare bollicine dell'altro mondo e, perché no, anche, come dicevo prima, delle bollicine che vengono da zone che storicamente non erano state mai considerate come vocate per la produzione del metodo classico. Certo, abbiamo la grande Franciacorta, abbiamo persino una situazione importante come il Trentino, l'Oltrepò, ma io credo che si debba avere il coraggio di spaziare, di curiosare, di ricercare senza nessuna paura, con il confronto e con la possibilità di curiosare in giro per le bottiglie. Ecco, tu mi hai usato un termine che mi piace molto, che ti ho sentito usarlo molte volte. Lo vogliamo spiegare, quel consumatore? Sì, consumatore sta nel cogliere che stanno cambiando profondamente i modi di consumare in ogni ambito, in ogni settore, ma quello che sta diventando l'elemento chiave è che il consumatore vuole diventare protagonista, vuole conoscere ciò che prova, vuole interpretarlo e vuole poterlo consumare dentro, io la chiamo, la casalinghitudine, la quotidianità. Oggi le esperienze che viviamo anche nel campo del bere dobbiamo poterle replicare. I fenomeni che assaggiano i cosiddetti vini molto strani sono sicuramente dei fenomeni che provano delle esperienze, ma poi il vino deve essere consumato, deve essere bevuto, deve essere avvicinabile. Ecco, come tu sai, noi lo diciamo spesso, oggi la grande sfida è un po' di democratizzare il consumo, anche perché ci sono dei consumatori molto più attenti e curiosi, disponibili a vivere tutte queste esperienze. Viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, vite in fondo giù. Christian, ma quando, diciamo, sei uscito con questo Lambrusco metodo classico, qual è stata la reazione del mercato? Ma diciamo che la reazione del mercato è stata in un primo momento un attimo diffidente, proprio perché il Lambrusco aveva già tracciato una sua strada da vino frizzante, da vino che, insomma, veniva consumato nell'arco dell'anno. Quindi vedere un'annata su un'etichetta, quindi vedere un vino che invece veniva consumato oltre 3 anni e vedere un affinamento differente, quindi sentire un Lambrusco molto, diciamo, più affinato, è stata una reazione un po' particolare da parte del pubblico. Invece in questo momento ho notato che attrae molto, come si suol dire, proprio perché il Lambrusco ha queste caratteristiche e soprattutto perché la gente adesso può capire perché si è avvicinata a un metodo che è il metodo classico, che prima forse era conosciuto fino a un certo punto. Quindi ha dato la possibilità di intravedere questo secondo me, binomio molto interessante fra Lambrusco e metodo classico. Giacomo, possiamo ammettere al tavolo dei grandi vini, diciamo spumanti, italiani, il Prosecco? Ma il Prosecco, come tu mi insegni, in questi anni ha fatto passi da gigante. È certamente un fenomeno di mercato nei confronti del quale non possiamo chiudere gli occhi, e io credo che oggi esistano sul mercato dei Prosecco, soprattutto metodo classico, di ottima qualità. Dopodiché io non vorrei essere frainteso, è chiaro che esistono delle bollicine dove il tempo, l'affinamento, la grande ricerca, il territorio, l'identità, la storia e la tecnica hanno reso di altissimo prestigio, e queste credo che il consumatore nel corso della sua esperienza dovrà trovare il piacere e l'occasione di incontrarle, ma come mi piace ribadire, bisogna essere curiosi, ed essere curiosi vuol dire approcciare il vino con le bollicine a 360 gradi. E la tua curiosità cosa ti porterà ad aprire l'ultimo dell'anno? Come ti ho detto, il Franciacorta è un territorio che sta dentro il mio cuore. Tu sai che ho anche, come dire, creato un gioco per imparare, certo, a capirlo di più. Certo, con Contadi Castaldi. Ma nello stesso tempo sono curioso, e ultimamente, senza far nomi di aziende, ho assaggiato un metodo classico ottenuto da uve Bombino Bianco che mi hanno veramente colpito. Siamo in una zona, la Puglia, che forse nessuno pensa che può produrre bottiglie metodo classico di ottima qualità. Ecco, quella è uno sfizio e una curiosità che mi voglio togliere anche all'ultimo dell'anno. I tuoi viaggi a maglie ti segnano, ma voglio chiedere a Christian Bellei. Bellei, dimmi la verità, tu l'ultimo dell'anno brindi con lo champagne? hai letto la mia mente. Io insomma sono molto attaccato allo champagne, proprio perché provo curiosità nel mondo dello champagne, mi reco in champagne 5 volte all'anno, quindi è un mondo che insomma ho conosciuto con mio padre, a cui sono molto affezionato, quindi non nego di sentire qualche champagne che ho portato dalla Francia un mesetto fa. Bene, grazie a Giacomo Moioli e a Christian Bellei, buon anno a tutti e due. Buon anno anche a te, Davide. Buon anno anche a te. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Libiamo negli alti calici che la bellezza infiola. Ebbene, mancano tre giorni a fatidica mezzanotte dell'ultimo dell'anno del 2013, e quindi tappi che voleranno. Da tutte le parti. E allora io chiedo a Stefano Zanette, che è presidente del Consorzio di Tutela Prosecco DOC, nonché anche ovviamente produttore, ma il Prosecco, diciamo l'ultimo dell'anno, raggiunge il massimo delle punte di consumo oppure le raggiunge durante l'anno, Zanette? Ma il nostro Prosecco ha una costanza di consumo nell'arco dell'anno, sicuramente dopo, sotto le festività, non è che si verifichino dei cali dei consumi, assolutamente no, però il nostro prodotto è un prodotto che è destagionalizzato e quindi il consumo è costante in tutto l'anno. Diciamo che forse è l'unica bollicina italiana che non è che è destagionalizzato, perché diciamo tutti gli altri raggiungono delle punte massime durante il resto dell'anno. Ma a Federico Graziani, che è un grande sommelier, esperto di vini, nonché produttore ora, ma non di bollicine, appunto sull'Etna, ma chissà, magari un giorno tirerà fuori anche uno spumante, una bollicina dell'Etna. Federico, ecco, come ti spieghi questo fenomeno? Appunto, tutti, diciamo, le altre bollicine italiane raggiungono le punte durante le feste, mentre il Prosecco no. Cosa c'è di diverso secondo te? Beh, sicuramente, buongiorno a tutti intanto, e ciao Davide. chissà, un giorno vivendo con Egliano magari riuscirò a prendermi una piccola vigna pure qua. E il discorso credo che sia in parte legato ad un discorso di prezzo e in parte ad un uso che è stato fatto appunto del Prosecco, che è diventato in maniera sempre più importante un vino quotidiano, insomma, ha sostituito un po' quello che era il vino bianco, il vino rosso anche nelle tavole, proprio per questa sua duttilità, questa sua fragranza e leggerezza, insomma. Senta Zanetti, voi siete riusciti a entrare all'Ermitage a San Pietroburgo, avete fatto un accordo anche di lunga gittata, anche culturale. Questo è un po', come posso dire, suggella l'internazionalità del Prosecco. Ecco, ma in giro per il mondo, che lei sappia appunto, sulle altre tavole, non quelle italiane, il Prosecco viene utilizzato a tutto pasto? Ma diciamo che non è proprio l'utilizzo primario. Sicuramente il Prosecco ha come utilizzo principale quello che può essere legato all'aperitivo, a momenti di occasione così, che sono anche appunto occasionali nell'arco della giornata, perché si presta molto bene anche a questo tipo di uso. Certo che il concetto di utilizzare il Prosecco a tutto pasto si sta affermando anche oltre che in Italia e in Europa, anche nel resto del mondo, perché questo può essere un fatto legato anche a quella che è la percezione del consumatore di avere la possibilità di utilizzare a tavola una bottiglia che può andar bene proprio per iniziare e concludere il pasto. Federico, da sempre lo champagne è sempre stato considerato un vino a tutto pasto, cioè i francesi lo utilizzano continuamente, appunto partendo dall'antipasto fino non al dolce, perché diciamo ci fermiamo. Ma tu pensi che anche molti, diciamo, molte aree di metodo classico italiano, tanto per non far nomi, Franciacorta di OCG oppure anche Trento DOC, hanno raggiunto questo livello per cui è giusto considerare questi vini, queste bollicine a tutto pasto e non più semplicemente come vini da aperitivo o tutto il più vini da brindisi? Io vedo questa tendenza, questo spostamento. Sono vini sicuramente che possono permettersi, anzi forse meglio dello champagne riescono a sopportare il pasto, perché hanno comunque una struttura un pochino più solida, hanno sia il Franciacorta che il Trento DOC hanno questa forza un pochino superiore che nell'ambito dell'abbinamento sicuramente viene gratificato dall'abbinamento con il cibo, e quindi mi sento di dire che c'è spazio ancora per utilizzare questi prodotti che trovano sempre maggior consumo anche tra i giovani, perché sono comunque legati a momenti di felicità, insomma le bollicine raccontano comunque della gioia, di un piacere. E soprattutto secondo me la bevibilità che non va mai sottovalutata, perché sono vini estremamente piacevoli e facilmente godibili, insomma. Ecco, io sento spesso amici o conoscenti che mi dicono, diciamo, si trovano degli champagne che costano molto meno di prodotti metodo classico italiano. Questo com'è possibile, mi chiedono. Ecco, tu come spieghi questo fatto? Forse non è che in Italia molti che fanno prodotti con le bollicine esagerano qualche volta sul prezzo? Anche quello è un mondo, nel senso che probabilmente ci si riferisce a qualche piccolo produttore di champagne, magari di una zona un pochino meno conosciuta, che ha le vigne di famiglia, che quindi ha sempre fatto questo mestiere, non ha dei costi fissi diciamo molto elevati, confrontandolo anche con delle eccellenze diciamo che a livello generale non credo che lo champagne possa essere considerato più economico dello spumante. Ci sono sicuramente dei casi in cui questo avviene, però sicuramente anche i passi che ha fatto l'Italia in senso tecnologico per arrivare a certi risultati ha un costo e in parte è giusto giustificarlo. Ecco, diciamo che lo champagne è un mondo ed è un tipo di vino invece il metodo classico italiano di alcune aree, ma anche, andiamo anche oltre, perché ormai si trovano dei metodi classici anche in aree e regioni magari che non hanno questa tradizione, è completamente diverso. Cioè, tu cosa ne pensi? Non si possono fare dei paragoni, secondo me. Paragonare è sempre difficile. Io credo che in Italia ci siano oggi delle espressioni di metodo classico, al di là di quelle due o tre zone, perché metterei anche l'Oltrepò Pavese, sta facendo delle cose molto molto belle da uve pino nero, ma ci sono dei Verdicchio, del Durello, del Greco, anche del Caricante sull'Etna, per esempio. Io non lo produco, ma ci sono degli ottimi colleghi che fanno delle bollicine straordinarie. È un mondo che racconta la diversità anche del territorio italiano nella sua molteplicità. Zanette, ma visti i successi che avete ottenuto all'estero, ora sicuramente quando qualcuno dice frizzantino, voi lo bastonereste, no? Beh, insomma, al di là che è una tipologia di prodotto che anche viene, ma diciamo che il chiamare il prosecco semplicemente un frizzantino o un prosecchino sicuramente è un po' svilente. Il riconoscimento che viene dato dal mercato internazionale, dal consumatore internazionale, è sicuramente un riconoscimento che va legato a quello che è la fama e la caratteristica dello spumante, e che è una tipologia che sicuramente sta ottenendo grandissimo successo. Senta, ma lei... prego, sì, prego. Prego, prego. No, volevo chiedere, ma lei l'ultimo dell'anno cosa brinderà, con uno champagne? No, io al di là che ho grandissimo rispetto per lo champagne, e per la storia, per la qualità del prodotto che da sempre viene collegato a questa realtà che storicamente non si può andare a negare, ma io sicuramente con un buon prosecco brinderò. Federico, ecco, tu, domanda difficile per te, perché sei abbastanza neutro, dimmi la verità. Allora, io sicuramente non farò mancare una bottiglia di champagne e sicuramente non farò mancare una bottiglia di spumante italiano, questo posso, credo di poterlo garantire. E detto questo, dovessi scegliere una sola bottiglia, vengo da una scuola abbastanza classica, quindi forse sarei sullo champagne. Tu hai fatto ultimamente un libro, cioè un bellissimo libro sui piccoli produttori, quelli abbastanza sconosciuti. Ecco, in questo tuo volume c'è molto dello spumante italiano, del metodo classico o di altri metodi anche? Beh, c'è molto, nel senso che, come ho già detto precedentemente, c'è molto interesse per questo mondo, quindi se anche delle zone hanno da sempre storicamente bevuto tante bollicine, penso alla fascia della Via Emilia, da Parma fino a Reggio, insomma fino a Bologna con il Pignoletto, è chiaro che c'è molta attenzione, quindi anche noi cerchiamo di seguire questa attenzione, anche perché questo porta comunque a un maggiore interesse anche da parte dei produttori, e tanti produttori si stanno mettendo in gioco sulle bollicine dappertutto, devo dire, a 360 gradi, dalla Sicilia alla Val d'Aosta. Ecco, prima noi abbiamo parlato del Lambrusco, tu ora hai citato il Pignoletto, quindi è, diciamo, un altro vitigno che è un vecchio vitigno, comunque sta riemergendo, mi sembra, su, diciamo, questa fascia appunto dei vini delle bollicine. Sì, sono contento di dire finalmente, perché per troppo tempo abbiamo cercato di bere dei vini che erano un pochino distanti dal nostro gusto. Siamo tornati, un po' alla volta stiamo tornando, ad ascoltarci e a bere quello che veramente il nostro fisico e il nostro palato ci chiede. Bene, io vi auguro buon fine anno sia a Stefano Zanette che a Federico Graziani, e io voglio chiudere non tanto facendo gli auguri a tutti, che sono ovvi, buon anno a tutti, però magari con una musica che ci porta appunto a mezzanotte dell'ultimo dell'anno. Tanti auguri per un felice 2014 e una fine 2013 da Davide Paolini.